Io credo che i cambiamenti avvengano quando si riesce a partecipare concretamente alle iniziative economiche e politiche. Quindi ci deve essere innanzitutto, credo, una grossa rivendicazione di democrazia economica. Per democrazia economica intendo proprio in cui ci riappropriamo delle scelte che vanno a decidere sulla materialità della nostra vita. Quindi la cosa fondamentale, secondo me, appunto per rivendicare il fatto che non possiamo lasciare le decisioni economiche in mano agli esperti, perché gli esperti, per quanto si definiscono neutrali e lì per fare il bene di tutti, se capiamo come funziona la logica del capitalismo, capiamo che il capitalismo è incompatibile col concetto del bene e del tutto. Il capitalismo è un sistema in cui ci sono classi in opposizione, ci sono perdenti e vincitori, e le politiche economiche sono fatte a favore dei vincitori e in maniera veramente fortissima, tant'è che oggi più che mai veramente la situazione è imbarazzante. Soltanto qua negli Stati Uniti sappiamo bene che gli abbienti pagano molte meno tasse rispetto ai lavoratori e che lo Stato costantemente favorisce investimenti togliendo i rischi ai privati, incentivando gli investimenti privati e intanto completamente sempre tagliando tutte le risorse sociali. Questo per dire che dobbiamo riappropriarci di questo spazio. Credo che questo sia il primo passo importante, riuscire a capire effettivamente come funziona il sistema, non farci più abbindolare da quelli che ci raccontano che in realtà appunto il capitalismo c'è sempre stato e che effettivamente il capitalismo non è che una manifestazione di un'essenza intrinseca che abbiamo di essere uomini economici razionali, no? Che questa è un po' la narrativa che ci viene proposta, e invece capire che no, che questa spiegazione è dovuta a teorie economiche che appositamente rimuovono la questione del perché alcuni sono lavoratori e altri sono proprietari di capitale dalla problema di cui ci si deve occupare l'economista. Quindi adottare una lente critica che ci permette effettivamente di risvegliarsi dall'addormentamento collettivo che è stato volontariamente messo in atto dalle teorie economiche dominanti. L'altro punto è capire che il perno della possibilità di trasformazione sociale sta nel cercare di trovare alternative a quello che è la caratteristica principale del capitalismo, è quella della dipendenza dal mercato. È il fatto che appunto siamo lavoratori liberi, diceva Marx, liberi nel doppio senso, nel senso che certamente non siamo più sottoposti politicamente a nessuno rispetto all'epoca feudale, rispetto a società schiaviste, ma nello stesso tempo siamo liberi perché privi dei mezzi di produzione e quindi in qualche modo dipendiamo dal vendere la nostra capacità di lavorare sul mercato. Perché? Perché dobbiamo ottenere sufficiente denaro in tasca per poter soddisfare i nostri bisogni, no? Quindi quando noi abbiamo fame cosa facciamo? Andiamo al supermercato e le merci al supermercato in qualche modo ci parlano e ci dicono: valgo 10 euro, trovati un lavoro e comprami. Questa è la compulsione della dipendenza dal mercato di cui Marx parla nel primo capitolo del Capitale, che è fondamentalmente un mondo effettivamente ribaltato, lui ci dice, perché in realtà noi soffriamo del fatto che abbiamo costruito un mondo che ci domina e in qualche modo i nostri bisogni sono soltanto secondari rispetto alla logica del sistema, in qualche modo noi siamo subordinati a questa macchina che ci schiaccia. Questo di nuovo non è un dato di fatto naturale, ma è stato attivamente costruito. Quindi questa dipendenza al mercato, tale per cui effettivamente noi siamo costretti a riuscire a fare in modo di sopravvivere dovendo comprare le merci che dobbiamo consumare durante la nostra quotidianità, è davvero la morsa principale che va combattuta. Come combatterla? Beh, ci sono tantissime esperienze appunto sul campo. L'idea originaria era appunto l'idea di riappropriarsi della soggettività nella capacità di produrre, quindi pensare consciamente e democraticamente il processo di produzione, perché la dipendenza dal mercato fa sì che noi siamo in qualche modo intrappolati in queste, quello che si può chiamare compulsione impersonale. Sono delle leggi in qualche modo cieche che ci avvolgono. Quello che dobbiamo rifare invece è coscientemente organizzare la nostra esistenza materiale, no? Quindi passare dall'inconscio, dall'impersonale al conscio, al personale, al collettivo, e quindi fare delle esperienze effettivamente di democrazia economica che possono prendere varie forme. In Cile c'è un grosso movimento di consigli di vicinato in cui l'idea appunto è: creiamo un modo per essere effettivamente emancipati dal mercato, ritrovare effettivamente la nostra forza nel produrre, organizzare la distribuzione delle risorse, perché non si può discutere di distribuzione di risorse senza mettere in discussione la produzione di queste risorse stesse, no? I processi produttivi sono inseparabili dai processi distributivi e questo è un enorme punto. Quindi il punto da riproblematizzare appunto il processo produttivo, le relazioni sociali di produzione in chiave ovviamente fortemente veramente ecologica in questo momento storico. E come farlo? Certamente ci sono tantissime comunità che secondo me si stanno spendendo in prima persona. Detto questo, è una lotta perché chiaramente qualsiasi tentativo di evadere la dipendenza dal mercato, che significa comunque avere un'ambizione grossa, uno lo può fare in vari modi, puoi anche fare pressione tramite i sindacati, pressioni sullo Stato, però la pressione sullo Stato non è sufficiente, deve esserci questa ambizione di andare al di là. Bene, questa ambizione di andare al di là chiaramente non è un'ambizione che fa comodo a quelli che dal sistema adesso beneficiano, e quindi bisogna sapere che non è una strada facile da percorrere, ma secondo me ci sono oggi di tantissime le realtà che effettivamente si ispirano all'idea di emanciparci proprio dalla compulsione del mercato, che è la prima forma di oppressione specifica del capitalismo.